87.9 in modulazione di frequenza, inizia Disorder, sigla di questo programma esistente dal 2002, ovviamente dei Joy Division, uno spazio che andrà avanti fino alle 23.15 circa, in lieve ritardo dunque. E ricordiamo il contatto telefonico 0649 1750, il sito internet che è www.ondarossa.info, anche per sentirci via streaming e per leggere le notizie contenute nel sito stesso. Per le comunicazioni mediante posta elettronica ondarossa@ondarossa.info, e vado a ricordare che questo spazio ha anche una pagina Facebook, prove tecniche di trasmissione /disorder, dove domani verranno stampate la playlist e ovviamente il podcast conseguente. Credo che dopo Disorder vada Todos, risolveremo l'arcano a breve. E quindi vado subito ad iniziare. Intanto andiamo a salutare Alessandra, Chiara, Ermeside Delirio qui da Roma, Fabio FK Drone da Londra. Iniziamo con questo progetto romano di recente nascita, si chiamano Granato, e li abbiamo apprezzati in questa loro fusione, in questo loro approccio, diciamo, elettro rock, dove vanno a congiungere, direi, molto egregiamente questi due elementi apparentemente lontani. Un sei tracce dal nome Corrente, da quale andiamo ad ascoltare TTT e Uscita. Eccoli qua, Granato. Eccoci qua, li abbiamo trovati questi Granato di Francesco Bianco e soci, eccoli qua da Corrente. We'll be right back. Ancora i Granato da questo Corrente, e ci andiamo ad ascoltare proprio il brano che va a chiudere l'intero lavoro. Trattasi di Uscita, Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, questo è Disorder. Un saluto dunque a Ermesi da Delirio, misterioso soprannome per lei. Saluto anche Giulia qui da Roma e anche la stessa Fabiola in quel di Ostia. Sta scorrendo e sta andando verso la conclusione questo Corrente, questo esordio per Granato, un progetto diciamo di elettro rock proprio qui di Roma. E ci siamo ascoltati TTT e Uscita. Francesco Bianco, voce, chitarra e sintetizzatore, Alessandro Cicala, chitarra, Dario Giuffrida, batteria e campioni. si è trasformato in una panetteria molto chic, con il ragazzo dai baffi ritti e i capelli a zero. E questa voce che state ascoltando è sempre di loro, è Rossana Salati, si parla per il brano omonimo che ci ascolteremo la prossima settimana. Ci spostiamo in territori più prettamente post-punk, una realtà romana ormai attiva da molti anni, si chiamano Echoes of Silence. E se la memoria non mi inganna, questo dovrebbe essere il loro quarto lavoro dal nome Tension, un lavoro autoprodotto e dal quale ci andiamo ad ascoltare la traccia di apertura Love is Hate e Civilize. We prefer rest. Un saluto anche al buon Gustavo. Ancora Echoes of Silence da questo Tension. Ultima conferma per i romani Echoes of Silence. Dunque abbiamo cominciato con la fervente scena romana con Granato, per l'appunto Echoes of Silence, e Tension era il loro quarto lavoro, evidentemente influenzato da Joy Division e tutto il portato di post-punk e dark wave di quegli anni. Filippo Nibneos alla voce, chitarra elettrica di Paolo Maccaroni, basso di Roberto Acquafredda e la batteria di Andrea Orlandi. Intanto la platea si è ulteriormente allargata, per cui Maya, che ci sta scattando dall'Argentina, ormai fedelissima. Fulvio di Solar Lodge, Fulvio Biondo qui da Roma. Un altro musicista, Luciano FM Genovese del progetto FM di IDM Ambient. Antonella, anche lei, spesso presente dalla Sicilia. Andiamo avanti, qui invece abbiamo il post-punk contaminato col synth-pop e il prodotto finale Black Light Ascension, terzo lavoro, bellissimo terzo lavoro per loro con Andrew Trail alla chitarra e voce, ex Knife Ladder e quindi collaborazione con il grande John Murphy lì in quella dimensione che era decisamente più industrial di questa. Un album questo di Austerity Exhibition che si chiude ottimamente con Doubt e Hands to be Fire. We'll be right back. shop. There be strangers, there be death. But if the dark should walk amongst us, cast no shadow or no breath, will I clasp you as a brother or huddle closer to those who are left? We'll be right back. just holding your breath. Why did you come back so quickly? You said you would love me like never before. I wake in a strange bed each morning. Then there's a voice that runs through my dreams. Is it a prayer or a warning? Splendidamente questo The Austerity Exhibition, terzo lavoro per Black Lat Ascension di Andy Trials e Junter Barrel, tastiere, computer e basso, sì, anche il basso. Tre ottimi lavori per loro. E intanto andiamo anche a risalutare Maya dall'Argentina, che ci conferma che ci sono attualmente 4 ore di differenza rispetto al fuso orario. Earth. 22:47, noi si va avanti e andiamo sempre più verso la parte più elettronica del programma, e lo facciamo tramite Bacterial Infection. Abbiamo qui questo lavoro di parecchi anni fa, questo Shine Todd Gwaffen, e ci ascoltiamo They're All Just Sleeping, un vero e proprio scioglilingua, e un'altra traccia dal nome Run per questo duo tedesco. Jetzt direkt der nächste Hit. Stück heißt Run. Run! Salutiamo ancora Alessandra qui da Roma e Gabriel da Londra, che ci dice che i Black Light Ascension a breve ci daranno altre buone notizie musicali. Sul piatto è andato questo Scheintot Gaswaffen, secondo demo del 1997 per questi Bacteriell Infektion. Con Uwe Marx alla voce e Roger Semsrott alle tastiere, un progetto che finì nel 2011 e attualmente quest'ultimo Roger Semsrott ha dato alla luce una nuova avventura dal nome Sleep Archive, di ispirazione più techno. Questo era il secondo demo dunque del 97, di cui una parte, come avete intuito anche, si svolge dal vivo, in parte influenzato dall'elettronica dei Clinic, per esempio, che mi sembra un riferimento abbastanza tangibile nel suono Bacteriell Infektion. Lui vive a Berlino, anche se di origine anglo-cubana, si chiama Blush Response. E questa è la sua ultima fatica dal nome Infinite Density, un album che esce per la Sonic Groove, un'etichetta di Adam X, personaggio assai noto da queste parti. Questo è Aum Shinking e poi ci ascolteremo Painkiller.